Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti da Deborah Rosciani e bentrovati a Salva Danaio. Il mercato immobiliare, il tema del quale ritorniamo a parlare oggi. Un mercato che, pur mostrando una capacità di tenuta migliore delle attese, accusa ormai in modo conclamato da anni il colpo della crisi economica. D'altronde la crisi è iniziata nel 2007, per cui ce la stiamo davvero trascinando oltremodo. Domanda ed offerta fanno sempre più fatica ad incontrarsi. Da un lato chi vende non vorrebbe abbassare troppo il prezzo per non perdere, e possiamo comprenderne i motivi, ma dall'altro c'è anche chi cerca casa e, con la capacità di spesa delle famiglie che sta scendendo inesorabilmente, si sente proporre delle cifre impossibili da affrontare, per non parlare poi della difficoltà, se non della impossibilità, di ottenere un mutuo anche quando la casa la si trova. Insieme ad un aggiornamento sulla situazione del mercato immobiliare in Italia, il taglio che però vogliamo dare questa mattina alla trasmissione è quello di un'osservazione delle dinamiche che lo caratterizzano da un punto di vista particolare, privilegiato se vogliamo, quello di un osservatore che è a contatto da un lato con i motivi e le esigenze di chi vende e dall'altro con le difficoltà di chi vuole comprare, l'agente immobiliare, l'agenzia immobiliare. Le agenzie sono un attore in gioco fondamentale in questo mercato che sicuramente non è molto fluido in questo periodo, e con le loro scelte possono anche, vedremo come, cercare di smuoverlo un po', ed è per questo motivo che ha fatto un po' di rumore l'iniziativa di un grande network immobiliare che ha deciso, sentito un po', di tagliare le commissioni, le provvigioni richieste ai potenziali acquirenti di immobili. Noi ne parleremo questa mattina. È la strada giusta per rimettere in moto il mattone in Italia? Come sta andando? Vi racconteremo le cifre, le percentuali sull'andamento dei prezzi, ma soprattutto cercheremo di capire anche qual è il modo giusto per mettere in chiaro subito dall'inizio il rapporto con l'agenzia immobiliare, come deve seguirci nella maniera più professionale possibile, e naturalmente parleremo poi anche di questa iniziativa per capire che tipo di reazione ha suscitato fra gli altri attori del mercato. E allora i nostri ospiti di oggi: Luca Dondi, analista del mercato immobiliare di Nomisma Real Estate. Buongiorno Dondi, bentornato. Buongiorno. Faremo con Dondi il consueto punto sul mercato in Italia dopo la presentazione avvenuta venerdì scorso del primo rapporto sul mercato immobiliare 2012, il consueto monitoraggio periodico di Nomisma sulle 13 città intermedie considerate. E poi l'agenzia immobiliare, Bruno Vettore, amministratore delegato di Tree Real Estate, che comprende i gruppi Gabetti Franchising Agency, Grimaldi Immobiliare Professione Casa. Dottor Vettore, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. E visto che abbiamo citato il network immobiliare, che con una iniziativa che per certi versi è assolutamente clamorosa, ma comunque inedita nel nostro paese, ha smosso un po' le acque, almeno vedremo quanto e come le muoverà, il network in questione Remax Italia, il presidente Dario Castiglia. Presidente, buongiorno. Buongiorno Deborah, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, 800 24 00 24, il numero verde per intervenire in diretta. Scusate, speriamo di farcela anche oggi a portare a termine la trasmissione, la vedo dura, quindi mi dovete aiutare con molte domande. Oppure scriveteci al 349-238-6666 all'indirizzo salvadanaio@radio24.it, oppure se volete potete animare anche la discussione sul nostro profilo Facebook, che è salvadanaio-radio24. Diamo un'occhiata alla borsa anche prima di partire con l'altra borsa, con quella del mattone. La borsa oggi, dal punto di vista del mercato azionario, era partita bene in Europa, poi gli indici hanno incrementato i guadagni, sono arrivati a segnare dei progressi di circa lo 0,8% fra i principali listini appunto del vecchio continente. Adesso vedo che rallentano tutti il passo. Londra è a più 0,20%, Parigi più 0,21%, Francoforte più 0,57%, Milano più 0,34%. A Milano tiene banco il caso Finmeccanica e Ansaldo. Finmeccanica più 7,83%, Ansaldo più 1,82%. Cos'è successo? È successo che il Sole 24 Ore questa mattina ha anticipato la notizia secondo la quale i giapponesi di Hitachi sarebbero pronti a mettere sul piatto un bel po' di soldini per poter rilevare il 50% di Ansaldo Breda e acquisire una partecipazione di rilievo anche in Ansaldo STS. Questo chiaramente fa schizzare i titoli interessati all'operazione. Bene anche Toz, +1,86 Fiat, +1,79 Pirelli, +1,57. Stamattina decisamente si è messo in moto tutto il comparto industriale a Milano, ma vanno piuttosto bene anche le banche. La migliore in questo momento è UBI, +1,24, ma anche Unicredit segna +1,21%. Abbiamo invece in discesa STM, che perde il 3%, Telecom -1,19, Campari -0,95. Euro su dollaro a 1,3355. Dopo le aste di questa mattina non si è mosso più di tanto lo spread fra BTP e Bund, CTZ a due anni collocati per tutto l'importo previsto da parte del Tesoro, con rendimenti ancora in discesa, rendimenti in discesa anche per i BTP decennali indicizzati all'inflazione dell'area euro. Lo spread stamattina continua a muoversi fra i 310 e i 315 punti base. Andiamo adesso al mercato immobiliare, allora come vi dicevo monitoreremo rapidamente intanto il mercato, le ultime novità, come è andato negli ultimi mesi, quali previsioni per il 2012, ma soprattutto se si cerca casa come ci si deve muovere con l'agenzia immobiliare, e visto che anche quello poi, oltre alla scelta della casa che già costa, oltre alla ricerca del mutuo, si deve anche chiaramente, ci si deve relazionare anche con la massima trasparenza possibile nei confronti dell'agenzia, l'agenzia che chiede delle provvigioni, anche quello è un costo che naturalmente sia venditore che potenziale acquirente devono sostenere. E allora per cominciare a mettere in moto di nuovo il mercato immobiliare, vi dicevo prima, un grande network ha lanciato questa iniziativa che si chiama Zero Provvigioni. Adesso ne parleremo, prima di tutto però Luca Dondi, Nomisma Real Estate. Che cosa decreta il vostro primo rapporto sul 2012? Cosa è successo negli ultimi mesi fra le 13 città intermedie monitorate? La situazione è ancora difficile, era facile preventivarlo perché con il peggioramento del quadro macro di fine anno era impossibile aspettarsi dati positivi. Se consideriamo appunto il contesto, le 600.000 compravendite del 2011 sono un risultato tutto sommato confortante, perché significa che abbiamo probabilmente raggiunto il punto di minimo sotto il quale anche in condizioni molto pesanti come le attuali difficile scendere. È chiaro che a questo punto bisognerà vedere gli effetti che avrà sul mercato un'eventuale nuova disponibilità creditizia. Immaginiamo che questa disponibilità arriverà sul mercato in maniera molto, molto parziale, molto graduale, per cui quello che ci si deve aspettare è un 2012 su valori sia di prezzo che di volumi non distanti rispetto a quelli del 2011, ma qualche segnale positivo lo cogliamo dal punto di vista degli spread, e questo potrebbe essere un fattore che induce all'ottimismo, probabilmente non per quest'anno ma dal 2013 in avanti. Interessante questo ragionamento che ha fatto in analisi tecnica nel mercato azionario, quello che lei ha definito una soglia al ribasso che difficilmente potrà scendere oltre, viene definita appunto il supporto, no? Al di sotto del quale c'è l'andare, oppure al di sopra c'è la resistenza, quindi possiamo fare anche questo parallelismo. Senta, quali sono le città dove si sono verificate le dinamiche più interessanti? Quali sono i tempi medi anche di vendita che avete registrato, visto che oggi soprattutto di questo parleremo con l'ausilio dei network immobiliari? Tempi di vendita molto lunghi, siamo tra i 6 e 7 mesi con punte superiori, c'è molta offerta sul mercato, domanda attenta, selettiva, poco sostenuta da credito, quindi c'è un'enorme distanza tra le aspettative dell'offerta e le disponibilità della domanda, e in questo il credito non ha certo aiutato né dalla parte dell'offerta, nel momento in cui pensiamo al nuovo e ai prezzi a cui una parte il nuovo continua a avere la pretesa di cercare di vendere, dall'altra parte non aiuta la domanda nel momento in cui si è particolarmente selettivi richiedendo garanzie aggiuntive per la concessione del credito. La difficoltà generale del mercato si vede su tutte le piazze che abbiamo preso in considerazione. I dati più negativi arrivano dalle città del centro Italia, in particolare da Livorno, dove il calo è stato più marcato che altrove, qualche migliore segnale di tenuta da alcune realtà del nord, in particolare Brescia. Queste sono le due città tra il campione delle 13 monitorate che hanno fatto registrare gli andamenti più esterni rispetto al dato medio. Quotazioni a Livorno appunto in calo di quasi il 4%. Notavo questa situazione originale che si è determinata in Emilia, dove appunto a Parma c'è stata la variazione minima delle quotazioni, quindi dei prezzi, meno 0,6%, mentre a Modena, che è poco distante, c'è il tempo massimo di conclusione di una vendita che è di 8,8 mesi, per cui davvero lì devono un po' mettersi d'accordo. Dondi, mi aiuti a iniziare la trasmissione di oggi. Che ruolo hanno? Lo avete monitorato nel vostro rapporto le agenzie immobiliari nel movimentare il settore in passato, appunto quando il mercato immobiliare correva? È successo appunto tra il 2002, 2003 e 2004, ovviamente le agenzie avevano un ruolo fondamentale, credo che lo abbiano anche ora, ma vivono momenti difficili, insomma, qual è il vostro punto di vista? Ma per noi sono un interlocutore fondamentale perché le nostre informazioni derivano prevalentemente dal lavoro delle agenzie. Io credo che in questa fase abbiano appunto un ruolo, come diceva lei, ancora più importante. Da una parte devono cercare di convincere l'offerta delle capacità di delle ridotte, modeste capacità di assorbimento della domanda, dall'altra devono garantire dei servizi per far sì che la domanda apprezzi il valore aggiunto che l'agenzia può dare. Credo che in questo momento giocare sulla riduzione degli oneri aggiuntivi, i servizi che possono essere messi a disposizione della domanda e casomai un rapporto consolidato con un gruppo bancario che garantisca un migliore e un più facile accesso al credito siano le leve che consentano di attenuare l'erosione del mercato intermediato rispetto al non intermediato, perché una cosa che abbiamo verificato è che in questo momento la componente di investimento è una componente che talvolta spesso tende ad esulare dal canale intermediato e in più c'è una componente anche non di investimento ma di utilizzo diretto che utilizza il canale internet o altre forme di acquisto diretto, per cui tende a esulare dal ruolo dell'agenzia. Quindi l'importanza del ruolo dell'agenzia si vede nel capire quali sono i servizi aggiuntivi e fare apprezzare questo valore aggiunto che si può garantire alla domanda. Dondi, grazie per essere stato con noi. Termino con i miei agenti questa mattina. Buona giornata, ci risentiamo per il prossimo rapporto. Grazie a voi, buona a presto. Dario Castiglia, abbiamo chiamato in causa Remax Italia, zero provvigioni, un'iniziativa che immagino forse ai vostri concorrenti non sarà piaciuta più di tanto, chissà anche che tipo di accoglienza avrà registrato fra i vostri agenti spalmati sul territorio, e però in altre zone del mondo non è poi niente di così particolarmente innovativo o comunque dirompente per il mercato, perché in molte zone del mondo dove lavorano appunto gli intermediari del settore immobiliare la provvigione all'acquirente dell'immobile non la si chiede, magari un po' più alta per il possibile venditore. Come vi è venuta questa idea? Bene, Debra, innanzitutto appunto vorrei che la campagna non fosse fraintesa, zero provvigioni all'acquirente, non zero provvigioni in toto, perché ovviamente l'agenzia... Se no pure voi chiudete, tanti saluti, certo, ci mancherebbe. Esatto, non percependo il giusto compenso non avremo neanche le risorse necessarie per fare un buon lavoro e quindi velocizzare quelle vendite che tra l'altro nel nostro network si abbassano notevolmente da quelli che sono i 6-8 mesi oggi di media sul mercato italiano. Ah sì, riuscite a concludere in tempi più rapidi, Castiglia? Assolutamente, abbiamo delle conclusioni in tempi anche di 30-60 giorni grazie a una fitta collaborazione tra le nostre agenzie e alcune campagne come questa qua che ci sta già portando degli ottimi risultati. Devo dire che questa campagna zero provvigioni all'acquirente è ispirata sicuramente a quello che succede in tanti altri paesi nel mondo, compreso ovviamente a partire dagli Stati Uniti, in Canada, ma non solo, anche in Europa. Ci sono circa 16 paesi in Europa che non fanno pagare provvigioni all'acquirente ma le fanno soltanto pagare al venditore, e noi ci siamo fatti questa domanda innanzitutto di avere il coraggio di lanciare qualcosa di nuovo nel mercato immobiliare che ovviamente è sempre visto inizialmente un po' con fumo negli occhi, e poi ci siamo chiesti un momento di mercato di questo genere dove ovviamente la congiuntura economica è quella che è e soprattutto il sistema creditizio non sta dando una mano agli acquirenti, il fatto di rimuovere quel costo da parte dell'acquirente che nella fase di compravendita è finanziariamente quello più penalizzato, cosa voglio dire? Comunque che nel debole, momento cioè... della vendita il venditore entra in liquidità, nel senso che vendendo l'immobile riceve dei soldi, mentre l'acquirente si trova a dover far fronte a tutta una serie di costi che vanno dal notaio al costo dell'assicurazione sul mutuo, al mutuo stesso, all'imposta di registro, alla nuova cucina o all'imbiancatura. Certo, tanto qualche cosa bisogna sempre fare per personalizzare ovviamente l'abitazione, che mi sembra un desiderio più che legittimo. Per cui, insomma, essendo la parte più debole, voi vi siete sentiti nella disponibilità di poter offrire questo servizio aggiuntivo, teoricamente, come lo chiamava Dondi prima. Sì, praticamente cosa è successo? Che la provvigione che solitamente paga l'acquirente è stata accollata al venditore. E devo dire che chi ha ricevuto meglio questa nuova campagna è il consumatore stesso. I venditori nostri, noi abbiamo già circa oltre 600 immobili caricati sul nostro sito con la campagna Zero Provvigioni, alcuni sono già stati venduti addirittura. Anche se poi, se non ho capito, la campagna parte il 20... è partita il 21 marzo, infatti, oggi è il 27. Il 21 marzo, il giorno di primavera. Benissimo. Mi scusi, al 21 giugno. Castiglia, la devo interrompere perché devo andare in pubblicità e sono già andata anche oltre il tempo massimo disponibile. Entreremo poi ancora più nel merito di questa iniziativa, capiremo anche che reazioni ha suscitato tra gli altri operatori del settore. Mi era sfuggito il passaggio che la percentuale non caricata sul potenziale acquirente venisse trasferita al venditore, perché anche lì, insomma, è un aspetto interessante, l'importante che si sappia. A tra poco. Eccoci ritrovati in diretta, oggi a Salvadanaio parliamo dell'andamento del mercato immobiliare, che è ancora, definiamolo così, stabile, anche se tutto sommato negli ultimi tempi, ce lo raccontava Luca Dondi di Nomisma, ha mostrato una capacità di tenuta migliore delle attese. Comunque le compravendite si mantengono stabili sulle 600.000 l'anno, ma siamo ben lontani appunto da quel record delle 826.000 toccate, se non mi ricordo male, o nel 2006 o nel 2007, insomma il top degli ultimi anni, dopo del quale è cominciato il trend di discesa. Cosa succede in questo momento? Che le agenzie immobiliari si stanno attrezzando per poter rimettere in moto con decisione questo mercato, e allora ha suscitato un bel po' di interesse questa iniziativa di questo grande network Remax Italia, che ha deciso di praticare zero provvigioni per l'acquirente dell'immobile. Volevo solo far precisare un ultimo aspetto a Dario Castiglia per poi sentire il commento anche di un altro grande network, quello appunto di Tri Real Estate, Bruno Vettore, lo sentiremo tra un attimo. Mi fa capire allora bene, Castiglia, ci faccia un esempio su un'ipotetica compravendita svolta secondo le vecchie modalità: che tipo di percentuale veniva chiesta all'acquirente, che tipo di percentuale di provvigione veniva chiesta al venditore, e ora praticamente che cosa succede? Allora, solitamente questi sono usi e costumi, e non solo, dipende anche da una trattativa poi privata. Certamente, ma per fare un esempio molto pratico, azzerandola da una parte... Le provvigioni sono il 3 e il 3%, cioè il 3% da parte venditrice ed il 3% da parte acquirente. Mm-hmm. Poi queste possono, come dire, variare, del mezzo certo, quello che è. Nel caso della zero provvigioni, il venditore si accolla praticamente il 3% che doveva pagare l'acquirente, quindi in effetti il venditore finisce per pagare o 5 o 6%, dipende dalla trattativa che è stata conclusa. Questo è un po' anche come paesi come il Nord America, ma anche la Spagna stessa, fanno pagare al venditore il 5-6%. Quindi il venditore si fa carico della provvigione che pagava l'acquirente, questo senza andare a influire sul prezzo. Troviamo terreno fertile in questo momento perché ovviamente con una pressione del mercato a ribasso sui prezzi, il venditore accetta volentieri di fare questo ulteriore sconto del 2-3% per poter agevolare la vendita del mercato. È un modo per portare appunto sulla strada della convinzione ad abbassare un po' i prezzi anche il potenziale venditore. Prima le avevo chiesto che tipo di reazione avevano avuto i vostri affiliati, perché appunto avevo immaginato che in realtà il 3% dalla parte del venditore non chiesta si volatilizzasse, quindi rimanesse solamente la percentuale a carico del venditore. Diciamo che per loro forse si complica un po' la trattativa con il venditore, che deve essere convinto del fatto che la provvigione appunto a suo carico aumenta. Le chiedo di fermarsi, Castiglia, andiamo a Bruno Vettore. E allora, se vuole chiaramente può offrirmi anche il suo punto di vista, il suo giudizio sull'iniziativa prepotente di marketing come questa. In alternativa mi può dire in casa vostra come state cercando di fare per movimentare un po', per chiudere più in fretta aperta le trattative per convincere i venditori ad abbassare i prezzi, che è il grande ostacolo alla rimessa in moto appunto del mercato immobiliare. Come fate a convincere le banche ad erogare il mutuo immobiliare ai vostri potenziali acquirenti, vettore? Voi come avete affrontato questo momento di mercato attraverso le vostre agenzie? Ma guardi, che sia un momento particolare, sicuramente lo sappiamo tutti, ne siamo tutti consapevoli. Volevo fare un paio di considerazioni, la prima legata a questa iniziativa dei colleghi, innanzitutto anche un saluto all'amico Dario con cui ci si vede spesso, insomma ci si confronta anche su queste cose. Diciamo questo, relativamente all'iniziativa dei colleghi, io credo questo, che se è solo un'operazione di marketing, evidentemente io non entro nel merito, ma anche perché ogni azienda si promuove come meglio crede, nella maniera più opportuna. E sinceramente il fatto di non far pagare la provvigione all'acquirente e caricarla sul venditore, voglio dire, non credo di dover entrare nel merito, perché credo ma non la voglio mettere in imbarazzo su questo, vettore, diciamo, certo, un po' poi da sola. Ecco, invece credo questo, mi piace affrontare il tema, perché io credo che in prospettiva, parallelamente e insieme alle associazioni di categoria, cioè la FIMA, la FIAI, Planama, dovremmo invece valutare tutti quanti nel tempo la possibilità di trasformare il mediatore in mandatario, perché dietro il fatto di chiedere la provvigione solamente al venditore o ambo le parti, c'è una situazione giuridica, una figura giuridica totalmente diversa. Noi agiamo come mediatori, 1754 articolo del codice civile, coloro invece che chiedono la provvigione solamente al venditore agiscono in veste di mandatari, sono regolati dall'articolo 1703 del codice civile e hanno anche doveri di altro tipo. Il mandatario non ha gli stessi doveri di trasparenza, di neutralità, di imparzialità che ha il mediatore. Quindi io non sono pregiudizialmente contro l'iniziativa dei colleghi, mi pare che fare lo sconto sulla provvigione all'acquirente sia come partire dalla fine. Probabilmente nell'ambito di una analisi complessiva della figura dell'agente immobiliare andrà introdotto anche questo tema, e magari in futuro la possibilità che il cliente possa scegliere tra utilizzare un mandatario, quindi che rappresenta solamente i suoi interessi, o fruire invece di un mediatore che rappresenta con imparzialità e con forti doveri di informazione e di trasparenza ambo le parti. Quindi nella credo sostanza, che insomma, se si dovesse vada fatta sotto questo punto di se vista. Se si dovesse in qualche modo istituzionalizzare anche fra altri vostri colleghi una pratica di questo tipo, forse richiederebbe anche la necessità di rivedere il profilo giuridico nel quale operate, ma credo che siamo ben oltre l'intento di Remax, che tra l'altro prevede questa iniziativa proprio per un arco temporale piuttosto limitato, l'idea di muovere un po' le acque, come dicevamo. Ma voi appunto, vettore, al di là del suo commento su questo, il momento come lo state gestendo appunto con i vostri associati, con le vostre agenzie? In due modi. Ricordando a un ottimo agente immobiliare, le posso garantire che ce ne sono tanti. Ah, non ho alcun dubbio. I fondamentali dell'attività, cioè dedicarsi all'acquisizione, alla vendita, all'organizzazione dell'agenzia, alla gestione dei collaboratori, alla pubblicità che va sempre fatta, e soprattutto, e questa è l'innovazione vera di questi ultimi tempi, operare molto con la tecnologia attraverso sistemi per esempio di MLS che possono velocizzare la vendita. E cosa sono? Sono dei sistemi che prevedono che, incaricando un agente immobiliare, nel nostro caso un agente immobiliare dei nostri tre network, la possibilità di condividere l'immobile con altri agenti immobiliari, quindi aumentare la possibilità di vendita. Questo facilita naturalmente il flusso degli acquirenti, che in questo momento chiaramente sono la parte un po' più debole, ce ne sono di meno, in questo sono d'accordo con i colleghi, però è attraverso queste forme, secondo il mio punto di vista, che si muove il mercato, attraverso dei servizi migliori, attraverso una tecnologia applicata, attraverso andare incontro al cliente. C'è anche chi si è organizzato diversamente, mi ha scritto questa mattina un altro network immobiliare pregandomi di segnalare il fatto che per esempio sul territorio di Padova una società appunto aiuta l'acquirente di un immobile a subentrare magari nel mutuo del venditore, in modo tale appunto da agevolare anche la pratica in banca, quindi l'agenzia immobiliare si fa garante anche della facilitazione di questo tipo di percorso, per cui effettivamente le iniziative intraprese sono diverse. Allora, Allora, prima di riprendere le fila con Castiglia e dialogare ancora con Bruno Vettore, vorrei sentire anche alcune delle così provocazioni o dei commenti dei nostri ascoltatori all'800240024. Stefano ci scrive al 349-238-6666, ma non è che poi il venditore, riferendosi all'iniziativa di Remax, carica la percentuale sul costo dell'appartamento? No Stefano, l'obiettivo è proprio un altro. Se il venditore si carica anche della percentuale di provvigione delle potenziali acquirenti, in realtà poi portato a velocizzare l'operazione di conclusione della trattativa, quindi abbassando il prezzo. Castiglia, l'ho detta male, ma mi pare che la finalità sia questa. Assolutamente, la finalità è quella di agevolare la vendita, di accelerare i tempi di vendita in un mercato che è praticamente un po' ingessato, quindi il fatto di ridurre il prezzo, ma non solo, agevolare soprattutto l'acquisto. Ecco, una cosa che io volevo precisare però prima che l'amico Bruno, che saluto caramente, ha detto, noi non stiamo portando i nostri agenti a diventare mandatari a titolo oneroso, nel senso che il fatto di ricevere il compenso solo da una parte, sia questo il venditore o l'acquirente, non esime il nostro mediatore da quello che è il suo ruolo giuridico di rappresentare ambo le parti, di essere indipendente, quindi di curare gli interessi di ambo le parti. Questo è importante da precisare, perché qualcuno magari dice, beh, se riceve solo il compenso da una parte, lavora solo per quella parte. No, il nostro mediatore ha dei doveri verso sia una che l'altra parte, questo è importante precisarlo. Benissimo, allora Paolo da Milano voleva commentare questa iniziativa, mi pare di capire che non la apprezzi particolarmente. Paolo, buongiorno. Buongiorno a voi e ai vostri ospiti. Ci dica. Diciamo che il secondo professionista che è intervenuto mi ha un po' anticipato quello che volevo dire io, quindi sostanzialmente sfonda quello che già è la mia idea. E io onestamente lancio questa provocazione, sono un professionista in questo settore da circa 15 anni, quindi sto affrontando questa crisi, ne ho affrontata un'altra ma non paragonabile a questa. Allora, diciamo che un'idea forse più giusta di quello di caricare completamente la mediazione al venditore è che l'agenzia stessa si debba mettere in discussione, ovvero la promozione che invece pensavo e che stiamo facendo noi con i nostri studi, della quale non voglio fare pubblicità, è che noi abbiamo dimezzato la mediazione dall'acquirente e dal venditore, da entrambe le parti. Mi sento nel mezzo, quindi mi sento comunque responsabile nei confronti, come chiaramente tutti i mediatori, sia da parte dell'acquirente che da parte del venditore nella maniera più assoluta, e non vorrei che non si dimenticasse che anche il venditore, essendo sicuramente la parte più forte, c'è una certa tipologia di persone che ha comprato purtroppo nell'arco degli ultimi 2-3 anni, che oggi si vede costretta a vendere l'immobile probabilmente anche a un 5, 7, 8, 9, e certo, in casi eccezionali anche a un 20%. D'altronde, Paolo, il mercato è questo, non è che per tutti i beni o gli asset di investimento che scegliamo il mercato è costantemente in crescita, ci sono dei momenti sfavorevoli come quelli durissimi che abbiamo vissuto negli ultimi tempi, per cui anche se si investe nel mattone non lo si deve fare con l'assoluta convinzione che questo bene cresca solo di valore sempre costantemente, non crede? Per cui tra l'altro credo che un buon lavoro anche dell'agente immobiliare sia quello di farlo capire, no? Ci possono essere delle fasi di mercato difficili in cui il bene acquistato, su cui si è investito, può anche diminuire di valore, non trova? E quindi Paolo, mi sente? Il punto della discussione è proprio questo. Non prendiamo in considerazione persone che vendono un immobile acquistato prima del 2000, dove hanno avuto la loro bellissima e favolosa rivalutazione. Esattamente, e ancora continuano ad avere, certo, anche dovendo rinunciare ad un 5% rispetto ai massimi delle quotazioni, possono ancora incassare qualcosa di ottimo, direi. Affronto una realtà di persone che purtroppo per motivi familiari, certo, o per necessità si trovano a vendere un immobile acquistato dal 2006 in poi, oggi a rivendere senza neanche recuperare le spese investite. Quindi secondo me l'idea è un'idea di marketing legata a probabilmente il marchio che io ho avuto a che fare tantissime volte. No, vabbè, però Paola, a parte tutto, che problema c'è? Se loro si sentono di farlo e se ritengono di doverlo fare, il mercato è anche questo. Assolutamente. Mi dà fastidio. Io credo che più giusto sia mettere in discussione anche il mediatore stesso, cioè caricando non solo da una parte, anche ma anche dall'altra parte. Tutte e due. Grazie Paolo, grazie e buon lavoro. Naturalmente ci fermiamo, suggerimenti per chi in viaggio, è tardissimo. Faccio fare un'altra domanda a Marcello da Milano, poi un ultimo giro con Bruno Vettore e Dario Castiglia. Marcello, buongiorno. Sì, buongiorno a voi, vi ringrazio per l'attenzione. Cercherò di essere veloce. Ho messo in vendita un immobile commerciale con l'intenzione di acquistare una casa per me e la mia famiglia. La richiesta dell'immobile commerciale è di 650.000 euro. Abbiamo trovato un appartamento che ci aggrada del valore di 550.000 euro, seguito da il proprietario, chiaramente seguito da un agente immobiliare. L'agente immobiliare chiaramente ha detto: io ho intenzione di acquistare questo immobile, chiaramente subordinato alla vendita del mio. Certo. L'agente immobiliare si è leccato i baffi, chiaramente la molla più, immagino, Marcello. La mia domanda veloce, considerando anche gli importi che vi ho comunicato, nel mio caso su quale tipo di ordine di commissione posso andare a trattare? Marcello, sa come, secondo me dipende anche un po' dal servizio che le offre, tutto negoziabile. Però Bruno Vettore, le faccio fare il suo lavoro adesso, insomma, che cosa direbbe a Marcello che si deve preparare al meglio con questo, su questo incontro che oggi ha con questo agente immobiliare? Marcello, scusi, deve vendere il suo immobile commerciale con un'agenzia? Esatto. O l'immobile commerciale lo vende non credo, diciamo che si è imbattuto nell'agente che è quello che Marcello vuole comprare, no? Praticamente lei ha trovato, sì, esatto, l'immobile da comprare, per cui chiaramente l'agente gli avrà proposto: guarda, che ti metto anche in vendita l'immobile commerciale. Ho capito, quindi sostanzialmente della doppia vendita si occupa uno stesso agente immobiliare. Sì, teoricamente no, ma nella pratica vorrebbe farlo, ecco, ammettendo che Marcello gli conferisca l'incarico per entrambe le operazioni. Beh, le provvisioni sono di norma, sono intorno al 3%, quindi il 3% per l'acquisto e il 3% per la vendita. Però certo è che evidentemente trattandosi di un doppio affare, magari Marcello avrà tutti i buoni motivi per fare una negoziazione a ribasso e per chiedere un buon sconto, trattamento, ecco. Certo. Certamente se non è il 3% sarà il 2%, ecco. Anche perché a volte il tanto bistrattato agente immobiliare famelico agente immobiliare nella realtà poi deve fare un'attività, deve fare un lavoro, magari sono mesi che raccoglie nominativi in una banca dati. Spesso una vendita arriva a conclusione di un lavoro che a volte dura, certo, per mesi, certo, ecco, certo. Quindi tutte queste considerazioni naturalmente al cliente di turno interessano relativamente, ma nell'analisi complessiva dell'attività di un professionista vanno tenute in conto. E infatti, allora, Dario Castiglia, l'ultima battuta, 20 secondi prima di salutarci, che cosa stanno dicendo i venditori a cui i vostri agenti stanno facendo questa proposta? 5% di provvigione complessiva, non più il 3%, però sappi che ti garantisco magari di vendere in tempi più rapidi possibili l'immobile, se questo riesce. Devo naturalmente dire che nonostante le giuste perplessità che qualche nostro operatore poteva anche avere inizialmente, trovandosi di fronte al venditore trovano le porte spalancate a questa iniziativa, la capiscono molto bene, capiscono qual è il reale vantaggio che danno agli acquirenti e quindi ritengono che sia una campagna che possa attirare più acquirenti, quindi più opportunità di vendere l'immobile. Ci faccia sapere come finisce, che così magari ne riparliamo di nuovo. Grazie a Dario Castiglia e a Bruno Vettore. Grazie. Noi adesso abbiamo la nostra rubrica sulle pensioni in collaborazione con l'INPS. Vi spieghiamo come funziona l'ultima riforma Fornero Monti. Continuiamo ad approfondire il tema di questa settimana, cioè il passaggio per tutti al metodo contributivo. Sentiamo. Pensioni, le novità della riforma, in collaborazione con INPS. Che cosa significa che dal 1 gennaio scorso si applica il metodo contributivo a tutti per il calcolo della pensione? Prima che metodo si applicava? La riforma Dini del 95 aveva già introdotto il metodo contributivo, ma non si applicava a tutti i lavoratori, in particolare a chi aveva almeno 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995, continuava ad applicarsi il sistema retributivo anche per gli anni successivi. A chi aveva meno di 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995 si applicava invece un sistema misto, retributivo per le anzianità maturate fino al dicembre 1995 e contributivo per le anzianità maturate successivamente. Infine, a coloro che avevano cominciato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995 si applicava interamente il sistema di calcolo contributivo. Con la riforma Fornero, il metodo contributivo, per un principio di equità, si applica a tutti, sia pure pro rata e dunque per le anzianità maturate dal 1 gennaio scorso in avanti. Tanti commenti che stanno arrivando ancora al 349-238-6666 sul mercato immobiliare. C'è chi addirittura ci racconta che avendo una casa per esempio di un valore di 850.000 euro, ce lo scrive Nicolò da Cremona, adesso è costretto a vendere a 450.000, certo casi estremi, ma che il mercato pure ci racconta. Se volete saperne qualcosa in più su casa, vendere e comprare, vi segnalo il dossier speciale online del Sole 24 Ore, www.ilsole24ore.com/, cioè barretta di traverso, compravendita casa. Quindi andate a curiosare, ve la mettiamo magari anche su Facebook all'indirizzo Salvadanaio.